Epilogo. Valle del fiume Mohawk, 1783. L'uomo scivolò nel fango e si rialzò. Arrancò sulla spianata in direzione del bosco. La mano premeva sul fianco ferito. La pioggia aveva trasformato il campo in un pantano. I piedi affondavano. Un ginocchio cedette, l'uomo si ritrovò a terra, si tirò su, proseguì piegato in avanti. Nei polmoni la paura e l'odore acre portato dal vento. Case bruciavano a meno di un miglio. Cacciò un urlo strozzato, un singhiozzo di terrore, mentre rotolava nella melma. Riuscì a mettersi seduto e a sfilare la pistola dalla cintura. Il cane scattò a vuoto. La scagliò contro gli inseguitori con un verso di animale braccato. Lo raggiunsero senza fretta e si fermarono a guardarlo. L'uomo ansimava, terreo, gli occhi pieni di lacrime. I due indiani scambiarono un cenno. Uno dei due alzò la sciabola. L'uomo urlò. La testa rotolò via. La pioggia cadeva fitta, a piccole gocce, avvolgendo tutto in una pace cupa. Kanatawakon puntò la lama in basso, lasciò che il sangue bagnasse la terra, mormorò parole nella lingua dei padri. Joseph raccolse la testa mozzata, prese un pugno di fango e lo ficcò nella bocca aperta. «Volevi la mia terra, Jonas Klug? Eccola, adesso è tua». Chiuse il trofeo in un sacco e lo caricò in spalla. La stanchezza dei lunghi anni di guerra rendeva il fardello ancora più pesante. La vendetta, il dono per Molly. Aveva messo a ferro e fuoco la valle una volta, due, ma Klug era sempre riuscito a sfuggire. Lo aveva scovato proprio ora che la guerra finiva. L'aria portò rumore di spari lontani, segnali d'adunata. Il lavoro dei volontari era terminato. Dallo Shoari a German Flats le case dei coloni erano cenere. Il sogno di Sir William era svanito per sempre. Nessun altro se ne sarebbe appropriato. I due indiani si incamminarono lenti fino alla cima di un dosso. Restettero a guardare la devastazione che li circondava. Il fumo saliva dai quattro punti cardinali. I campi erano bruciati o in rovina. Vacche scampate alla razzia si aggiravano senza meta. Kanatawakon pronunciò poche parole. «Sì», annuì Joseph, «non torneremo più». La guerra era perduta. Le ultime notizie dicevano che a Parigi i bianchi discutevano la pace. Gli inglesi trattavano la resa, ma nessun indiano sedeva con loro. Joseph Brent era ormai un alleato scomodo. I superstiti delle sei nazioni vivevano su una manciata di isole all'imbocco del San Lorenzo. La mente di Joseph si alzò sopra le macerie di Rock Irlanda. Risalì il fiume, volò oltre i laghi. La visione di Cristina che giocava nel sole gli alleggerì il cuore. Isaac raggiungeva la riva a nuoto e spruzzava la sorella d'acqua fresca. La faceva ridere, la inseguiva nella casa di legno. Molly l'aveva fatta costruire per loro. Ce n'erano altre, camini accesi, orti coltivati, barche che andavano e venivano. E c'era lei, Degon Wadonti, copia viva di Donna del Cielo, che raccontava ai più piccoli la leggenda del giardino di Dio e dei mille frammenti scampati alla distruzione. Mille gocce di paradiso dove allevare la speranza. Sull'aia, una giovane donna dai capelli biondi sceglieva i semi da far germogliare a primavera, la discendenza di pannocchia, fagiolo e zucca. Joseph lo sapeva, non avrebbe visto quel raccolto, non dal fondo di una guerra che gli era costata tutto, e pretendeva di congedarlo senza rumore né risarcimenti. Avrebbe inchiodato i bianchi alle loro promesse con il fiato che gli restava. Sarebbe tornato a Londra, se necessario, per chiederlo al re in persona. Il sentiero portava ancora lontano. Strinse forte il lembo del sacco. «Dobbiamo rimetterci in marcia!» I due indiani scesero verso il fiume. Le sagome si fecero vaghe, fino a sparire, oltre la cortina di pioggia.